Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Lorenzo Infantino. Buonasera, buonasera agli ascoltatori e a lei. Lorenzo Infantino è docente di metodologia delle scienze sociali alla LUISS di Roma e ha realizzato la prefazione di un libro di fine Ottocento, ma che è di attualità e ce lo dirà perché adesso il professor Infantino. È il libro di Karl Menger che si intitola Denaro. Denaro è in una analisi appunto del fattore monetario visto da un esponente tra i maggiori esponenti della scuola austriaca di economia, e questo libro esce da Rubettino proprio nella biblioteca austriaca. Allora, professor Infantino, perché è attuale un libro di fine Ottocento che parla di denaro? Beh, questo è un libro che ci consente di rivisitare il dibattito monetario a partire dalla fine dell'Ottocento fino ai nostri giorni. Ovviamente Menger non ha potuto anticipare quello che si è verificato dopo l'apparizione del suo scritto, ma ha anticipato le conseguenze che l'adozione di particolari sistemi monetari avrebbe prodotto. Menger, come lei giustamente ha detto, è stato il fondatore della scuola austriaca di economia e normalmente gli economisti lo collocano sotto l'etichetta di neoclassico, ma in verità sia l'etichetta di economista classico come quella di economista neoclassico è fuorviante, perché ci sono due tradizioni all'interno di tutte e due queste categorie che si confrontano, quella razionalistica e quella evoluzionistica. Ecco, Menger appartiene alla tradizione evoluzionistica e ha indagato il denaro, il fenomeno come è nato, e quindi ha posto in evidenza come il denaro sia nato per via evolutiva, cioè dire è un prodotto organico della interazione sociale, è un prodotto sociale. E quando alla fine dell'Ottocento si è reso conto che eravamo alla vigilia della nascita delle grandi banche centrali, ha espresso una preoccupazione, il suo è stato un grido di allarme, perché ha subito capito che le banche centrali non avrebbero consentito di realizzare quell'equilibrio monetario necessario al corretto sviluppo economico. La sua preoccupazione è stata che la banca centrale potesse determinare uno strutturale eccesso di offerta di liquidità sulla domanda. Ecco, liquidità. Quindi in una certa prospettiva Menger pensava che ci dovesse essere una concorrenza anche nella produzione di denaro, cioè era contrario al fatto che ci fosse un monopolio, ma quindi anche una garanzia da parte delle banche centrali sul valore del denaro. Quindi diciamo che mette un po' in crisi tutta la teoria monetaria moderna. Esattamente, Menger pensava che il denaro, essendo nato come istituzione sociale, dovesse continuare ad essere una istituzione sociale e non essere assorbita dal potere pubblico con una banca centrale che determina il tasso di interesse, tasso ufficiale di interesse, che è un prezzo. Per nessun prodotto noi abbiamo un prezzo determinato dallo Stato, ma in questo caso la banca centrale determina il prezzo del denaro. Il prezzo ha una funzione altamente economica, come noi sappiamo, è una funzione selettiva, per cui una situazione così fatta con la banca centrale prestatore di ultima istanza determina un eccesso di offerta sulla domanda, e quindi ciò produce le crisi che noi abbiamo visto nel corso del Novecento, come la crisi che ancora stiamo vivendo. Ecco, ma non può essere un rimedio forse peggiore del male il fatto di lasciare libera la creazione di denaro, perché se c'è eccessiva creazione di denaro con un unico istituto di credito, con una banca centrale, un unico istituto di emissione, potrà essere ancora maggiore, ancora più in eccesso, se si può dire così, la creazione di denaro se fossero tante le istituzioni in concorrenza tra di loro. No, perché Menger poneva come, ovviamente rifiutava il corso forzoso e quindi poneva come condizione necessaria l'esistenza di una convertibilità delle monete, e quindi non voleva un ritorno integrale a loro, ma richiedeva in ogni caso l'esistenza di una riserva frazionaria. Ecco, in questa prospettiva allora l'insegnamento di Menger per la realtà attuale è quella, se vogliamo essere realisti, di far sì che le banche centrali facciano di più il loro dovere, oppure bisogna veramente smontare questo meccanismo delle banche centrali? Beh, Karl Menger è quello poi che sosteniamo io e il mio collega José Antonio de Aguirre nella prefazione. Karl Menger ha anche scritto un breve saggio per gli economisti inglesi, perché il suo testo molto esteso è stato scritto originariamente in tedesco, ma ne ha scritto uno più breve in inglese per richiamare l'attenzione dei suoi colleghi che all'epoca detenevano il monopolio della conoscenza, o il primato quantomeno della conoscenza nel campo economico. E quindi Menga voleva esattamente questo, che non si andasse verso una banca centrale ma verso un sistema competitivo con delle monete convertibili. Ora noi non è che possiamo oggi richiedere lo smantellamento di delle banche centrali da un giorno all'altro, però tutta la prospettiva offertaci da Menga può essere utile, perché gli studiosi, anziché andare in un'unica direzione, quella della banca centrale, potrebbero utilmente esercitarsi su altri modelli, e quindi in prospettiva magari la situazione potrebbe cambiare, perché la stessa prospettiva della globalizzazione offre delle possibilità che in passato forse erano impossibili o ignote. Ecco, quindi non fermarsi alla realtà attuale dell'economia come un dogma, ma pensare appunto che l'economia è qualcosa di evolutivo, qualcosa che si evolve insieme alla società, e che quindi merita dibattere anche di questi problemi alla luce appunto di analisi che possono essere al limite molto provocatorie. Sì, in effetti si tratta di riportare la moneta o il denaro, che oggi è semplicemente un mezzo di pagamento, a riportarla alla sua originaria natura, che è un mezzo sociale, cioè un prodotto sociale, e quindi non lasciarlo al monopolio dello Stato. Ecco. In questo caso ciò confliggerebbe con tutto ciò che avviene in una società aperta. In una società aperta noi non abbiamo monopoli di alcun tipo, ma sul versante monetario abbiamo un monopolio che stride con tutto ciò che la società aperta è. Ecco, e con questa riflessione, magari pensando anche che il denaro non dovrebbe appunto essere un fine, ma è uno strumento a disposizione, uno strumento creato dalla realtà umana, dall'evoluzione della realtà umana, e quindi deve essere uno strumento per altri fini, ma qui entra in gioco poi l'etica, la morale e la società. Georg Simmel, che è grande sociologo tedesco, padre, uno dei grandi padri della sociologia, che è salito sulle spalle di Karl Menga, dice appunto che il denaro è lo strumento per antonomasia. Grazie mille, grazie a Lorenzo. Grazie a lei, buonasera. Grazie a Lorenzo Infantino, docente di metodologia delle scienze sociali alla LUIS. Abbiamo parlato con lui del libro di Karl Menge, Denaro, edito da Rubettino. Sono 220 pagine per 12 euro. Lorenzo Infantino, insieme a José Antonio de Aguirre, ha scritto la prefazione e ha curato la realizzazione di questo libro. E dopo aver parlato con Lorenzo Infantino della teoria economica di Karl Menger sul denaro, guardiamo brevemente a un altro libro e a un altro economista di fine Ottocento, Knut Wicksell, rappresentante anch'esso della scuola austriaca. Un economista svedese che distingue tra il tasso di interesse naturale, ovvero il tasso di interesse che sarebbe determinato dall'offerta e dalla domanda se i beni capitali reali venissero prestati in natura, e il tasso di interesse monetario, ovvero quel tasso di interesse che è domandato e pagato per i prestiti in moneta. Il tasso di interesse naturale non è che un prezzo determinato quindi dalla domanda e dall'offerta di capitali, ed è questa la novità di fine Ottocento di Wicksell. E ogni volta che tale prezzo viene modificato artificialmente sul mercato del credito, si altera il reale prezzo del capitale. Ecco, pertanto non considerare il tasso di interesse alla stregua di un prezzo fa sì che se le banche e gli altri enti finanziari presteranno il denaro, ad esempio un tasso di interesse più basso rispetto al tasso di interesse sul capitale, risulteranno relativamente più vantaggiosi alcuni rami di produzione rispetto ad altri. In questa prospettiva, riprendendo queste tesi, un'analisi molto accurata di come la politica monetaria abbia non solo influito ma determinato in gran parte la crisi economica degli ultimi 5 anni, la si può trovare allora nel libro Dalla crisi finanziaria globale a nuove regole monetarie di Anna Florio, Marco Rossani e Gian Giacomo Nardozzi, edito da Rubettino. Come spiegano gli autori, prima della crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008-2009, una massiccia redistribuzione del reddito nell'economia reale aveva accresciuto notevolmente i tassi di profitto delle imprese, mentre le politiche monetarie, a cominciare da quella della Fed, della Banca Centrale Americana, provocavano una consistente discesa dei tassi di interesse reali. Questa divergenza, secondo gli autori, unita ai crescenti squilibri dei conti con l'estero, che vedevano l'esplosione del deficit americano americana e del surplus cinese, richiama alla mente l'opera di Wigzell, che a fine Ottocento teorizzava, come detto, la necessità che le politiche monetarie fossero dirette a allineare i tassi di mercato a quelli naturali determinati dal rendimento del capitale. Seguendo questa teoria, nella sua formulazione originaria, in questo libro si propone una semplice interpretazione dell'origine della crisi che prospetta tuttavia anche la possibilità di uscire da una lunga fase di abuso di una politica monetaria che viene definita dalla vista corta, una politica monetaria che favorisce la finanza più che lo sviluppo dell'economia, con rischi quindi di nuove crisi. E allora, se è vero, come in parte è vero, che è stata la finanza a provocare la crisi, allora può e deve essere proprio la finanza a dare al mercato la possibilità di funzionare in prospettiva meglio che nel passato. Quindi questo libro, Dalla crisi finanziaria globale a nuove regole monetarie, è di Anna Florio, Marco Lossani e Gian Giacomo Nardozzi, ha 70 pagine, costa 14 euro ed è edito da Rubettino, così come da Rubettino era edito il libro Denaro di Karl Menge, che abbiamo presentato nella prima parte con Lorenzo Infantino. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Luca Cremonese in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento è per sabato prossimo.